In questa puntata di 2024, in questo weekend, ci occupiamo di traffico. Forse molti di voi, alcuni di voi, sapranno che oggi è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico che effettivamente c'è su strade e autostrade attraverso una serie di sensori che sono posizionati su automobili, all'interno delle strade annegati nell'asfalto, altri tipi di sensori, ad esempio anche i telefoni sono oramai sensori che trasmettono la loro posizione. Insomma, ci sono tanti modi per raccogliere informazioni sul traffico. In questa puntata parleremo proprio di questo, cercheremo di capire come vengono raccolte queste informazioni, che tipo di informazioni sono, quanto affidabili sono e soprattutto come possono essere utilizzate. Parleremo anche dei modelli di utilizzo, come le aziende che si occupano di queste informazioni, ad esempio, generano ricavi. Questo è un settore che si sta trasformando molto velocemente, anche perché l'utilizzo che noi facciamo di queste informazioni oramai passa dal web, dagli smartphone sempre di più e sempre meno dai classici PND, i Personal Navigation Devices, cioè il navigatore GPS classico. Ne parleremo in questa puntata. Se state ascoltando questo file, questa registrazione, dopo il sabato e dopo le 17, sappiate che trovate nella sezione podcast di Radio 24 la registrazione della nostra puntata, la nuova puntata di 2024. Da Enrico Pagliarini l'augurio di un buon ascolto.